giustamente difficile prevederlo, forse non lo sanno neanche gli attori in campo e neanche il presidente Mattarella. E diciamo che un primo scenario che sembrava più probabile, poi c'è stato qualche arretramento, leggendo i giornali negli ultimi giorni, è, diciamo, è quello di un'intesa tra il 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini. Quindi questa è sicuramente una prima ipotesi che porta poi però con sé dei limiti. E sostanzialmente il problema è che a Salvini molti osservatori dicono non converrebbe sganciarsi dal centrodestra per andare a fare un'alleanza soltanto lui con il 5 Stelle. In questa direzione vanno anche alcune dichiarazioni di esponenti leghisti di quest'oggi, tra l'altro, ma appunto il veto di Di Maio su Forza Italia, su Berlusconi, a che logica risponde? Risponde probabilmente a due logiche insieme, cioè da un lato la necessità di trovare una soluzione di governo che sia digeribile per l'elettorato del 5 Stelle, diciamo che Berlusconi non è praticamente uno dei leader politici più vicini e più appetibili, no? Come alleato di governo per una parte significativa della base dell'elettorato 5 Stelle. Dall'altra parte c'è poi una esigenza più tattica, se vogliamo, cioè il fatto che se il 5 Stelle si andasse a alleare con tutto il centrodestra, indubbiamente peserebbe meno che se fosse alleato solo con la Lega, sarebbe un po' annacquata, no, la spinta sul governo del 5 Stelle, avendo come alleati in quell'ipotesi tutto il centrodestra che pesa di più in Parlamento. A proposito del primo tema che citavi, ha già avuto qualche ripercussione sull'elettorato dei 5 Stelle l'appoggio dato per l'elezione della Presidente del Senato? Ma in termini di consenso non sembrerebbe, abbiamo continuato a monitorare l'andamento dei partiti anche in queste prime indagini, questi primi sondaggi che sono stati fatti dopo il voto del 4 marzo, non sembra esserci stato un rallentamento, anzi rispetto al 4 marzzo, quando già pure il 5 Stelle ebbe un ottimo successo come sappiamo, c'è stato un lieve incremento sia del 5 Stelle sia della Lega. E poi c'è il PD che ha scelto una via appunto dell'intransigenza, almeno questa è la linea uscita dalla direzione, non ci sarà nessun cambiamento in questa linea secondo te? Ma io non ne sarei così sicuro per due motivi, e innanzitutto la questione di quanto regge la leadership, no? In una fase così complessa come quella attuale, in cui non c'è peraltro una vera leadership salvo la reggenza di Martina, quindi da un lato c'è questo tema proprio di sfida interna, dall'altro la posizione del PD sembra essere quella di una opposizione a prescindere dalla soluzione di governo che si troverà, però è una posizione preventiva che si scontra col fatto che non abbiamo ancora uno schema in cui si gioca, no? Non sappiamo ancora chi sarà maggioranza e chi minoranza, e quindi non è detto che il PD non si possa poi riscoprire appoggio per un eventuale governo tra qualche tempo. Voi qualche tempo fa sul sito di YouTrend avete pubblicato un sondaggio di Quorum sulla posizione dei cittadini, e in particolare l'elettorato del PD, visto di questo stavamo parlando, è più possibilista, e dall'altro lato, sempre a proposito dell'orientamento dei cittadini, molti, direi la maggioranza, più della maggioranza, escludono un ritorno alle urne. Sì, è chiaro che però in una situazione frammentata come quella di oggi non ci sono scenari infiniti, nel senso che, come dicevamo, o si va verso un governo 5 Stelle Lega o 5 Stelle centrodestra, o il 5 Stelle viene appoggiato dal PD, e questa è un'altra ipotesi, o si trova una formula, diciamo, di larga convergenza un po' di tutti i partiti, oppure ancora il PD potrebbe appoggiare il centrodestra, anche se pare un po' difficile, ma al di là di questo è chiaro che l'alternativa diventa il ritorno alle urne. Quindi in questo senso, a prescindere da quello che poi dicono gli attori in campo, da quello che ci possiamo augurare, non è una soluzione con infiniti sbocchi, e il ritorno alle urne, per quanto improbabile, se vogliamo, perché nessuno dei neoeletti in Parlamento vorrà sacrificarsi, però rimane una ipotesi che non si può del tutto scartare. Un'ipotesi che non si può scartare, che però potrebbe non cambiare le cose vista la legge elettorale. Sì, devo dire, con qualunque legge elettorale in verità si sarebbe prodotto un risultato analogo. Il 4 marzo abbiamo su YouTrend fatto una serie di simulazioni usando un po' tutti i sistemi elettorali del passato, di altri paesi, e insomma con ciascuna legge elettorale avremmo avuto sostanzialmente un risultato simile a quello che abbiamo avuto con il Rosatellum, cioè l'assenza di una maggioranza assoluta e più o meno un rapporto di forza simile tra centrodestra, 5 Stelle e PD. Quindi diciamo che il Rosatellum ha molti difetti, tra questi non considererei quello di non aver dato una maggioranza, perché effettivamente il paese del 4 marzo è stato spaccato, no? Sia geograficamente sia elettoralmente, davvero in tre blocchi. E dunque non ci resta che attendere. Non ci resta che attendere. Molti osservatori dicono che sarà un'attesa lunga di un mese, due mesi, quindi più di quanto solitamente si attende per la formazione di un governo, e chissà che appunto tra qualche settimana anche le preclusioni, no, dei vari attori in campo non siano superate.